Capitolo 9. Turbamento. Joe, mi fa stare in pensiero Beth. Perché, mamma? Da quando sono nati i bimbi di Meg sta meglio del solito, mi pare. Non è la sua salute che mi fa stare in pensiero adesso, è il morale. Sono certa che ha qualche cosa e voglio scoprirla. Ma cos'è che ti fa pensare così, mamma? Sta molto sola e anche col babbo non parla più tanto come una volta. L'altro ieri l'ho trovata che guardava i due bimbi e aveva le lacrime agli occhi. Quando canta non canta che arie tristi e ogni tanto le vedo in viso un'espressione che non capisco. Non è più lei e la cosa mi preoccupa. L'hai interrogata? Ho tentato una volta o due. O mi ha risposto evasivamente o ha preso un'aria così sconsolata che io ho smesso. Io non voglio mai che le mie figliuole mi facciano le loro confessioni per forza. Aspetto, ed è raro che debba aspettare molto. Mentre parlava così, la signora March scrutava il volto di Joe. Ma quel volto non mostrava altra preoccupazione che quella destata da lei per la sorella. Per qualche minuto Joe seguitò a cucire in silenzio e infine disse: Io credo che sia perché cresce e comincia ad avere i suoi sogni, le sue speranze, i suoi timori. I suoi turbamenti, senza saperne la ragione, senza riuscire a spiegarseli, perché, vedi, mamma, ormai ha 18 anni. Noi non ci pensiamo e la trattiamo sempre da bimba, dimenticando che ormai è una donna. Sicuro, ah, signore, come crescete tutte, le rispose la madre con un sospiro e un sorriso. Non c'è rimedio, mammina, bisogna che ti rassegni a mille e mille preoccupazioni e a vedere i tuoi uccellini che uno dopo l'altro spiccano il volo dal nido. Per me, ti prometto che non volerò tanto lontano, se ti può essere di qualche conforto. È certo un grande conforto, Joe. Ora che Meg se n'è andata, mi sento più forte quando ci sei tu. Beth, poverina, è debole e Amy è troppo giovane per poterci far conto, ma quando viene l'ora della prova, tu ci sei sempre. Già, e tu lo sai che la fatica non mi fa paura. In una casa bisogna che ci sia sempre una come me. Amy va benissimo per i lavori fini. Io no, invece. Io mi trovo nel mio elemento quando ci sono tutti i tappeti di casa da battere, oppure se cade ammalata mezza famiglia in una volta. Amy sta brillando all'estero, ma se c'è qualcosa che qui va male, l'uomo che ci vuole sono io. Allora Beth la metto nelle tue mani. La affido a te. Il suo tenero cuoricino si aprirà alla sua Jo prima che a chiunque altro. Tu, naturalmente, devi interrogarla con delicatezza, in modo da non farle pensare che la teniamo d'occhio e che parliamo di lei quando lei non c'è. Se la potessi rivedere forte e allegra come una volta, non avrei altro desiderio. Beata te, io ne ho tanti. E quali sono, cara? Prima lascia che metta a posto la faccenda di Beth, poi ti parlerò di me. I miei desideri non sono tormentosi e perciò possono aspettare. E così dicendo, Joe riprese a cucire con l'aria di una persona che è sicura di sé e piena di senno. Tanto che le preoccupazioni della mamma sul suo conto cessarono. Da quel giorno, pur mostrandosi occupatissima delle proprie faccende, Joe tenne d'occhio Beth e, dopo molte supposizioni contraddittorie, si fermò al fine sopra una, che secondo lei spiegava tutto. Fu un incidente da nulla che le diede la chiave, parve a Joe, del mistero. La fantasia vivace e il cuore affezionato fecero il resto. Un sabato, nel pomeriggio, Joe fingeva di essere molto occupata a scrivere. Era sola con Beth e, sempre scribacchiando, la teneva d'occhio. Le sembrava fosse più cheta del solito. Seduta davanti alla finestra, ogni tanto si lasciava cadere in grembo il lavoro e, col volto posato sopra una mano, guardava sconsolata il triste paesaggio autunnale. Qualcuno passò in strada fischiando un'aria d'opera e una voce gridò: «Tutto bene, stasera vengo!» Beth si scosse, si protese e, dopo aver salutato con un cenno del capo, osservò la persona finché suo passo veloce si perse in lontananza. E infine, a bassa voce, come parlando a se stessa, disse: Com'è forte e come sta bene, pare felice, caro ragazzo. Fece Joe scrutando sempre il volto della sorella, sul quale si era diffuso un vivo rossore, che però subito scomparve. E svanì il sorriso mentre una lacrima cadeva sul davanzale della finestra. Beth fu pronta a farla sparire e, come colta in fallo, diede un'occhiata a Joe, che tirava innanzi a scribacchiare con furia, come sprofondata nell'opera creatrice da cui doveva uscire il giuramento di Olimpia. Appena Beth non la guardò più, Joe si mise a studiarla e la vide più volte portarsi la mano agli occhi con un gesto lento, e su quel volto un po' turbato scorse una preoccupazione accorata che faceva venire le lacrime anche a lei. Temé di tradirsi e Cheta Cheta scivolò via dalla stanza brontolando confusamente che aveva bisogno di altra carta. Oh, signore, è innamorata di Lori! Beth! Disse sedendo di schianto appena arrivata nella propria camera, pallida e atterrita della scoperta fatta. Chi ci avrebbe mai pensato a una cosa simile? E la mamma cosa dirà? Lui? Al pensiero di lui Joe si fermò e un subito rossore le invase il volto. Se lui non l'amasse, sarebbe terribile, ma deve amarla, lo costringerò io! E scoteva il capo minacciosa a quella faccia sbarazzina che pareva irriderla dal ritratto appeso al muro. Si cresce, altro che crescere. Meg già sposata, già madre. Amy che se la gode a Parigi e Betty innamorata. La sola che ha un po' di giudizio che non combina guai sono io. Con gli sguardi intenti al ritratto, Joe riflette profondamente un poco. Alfine la fronte si spianò e con un cenno risoluto del capo rivolse la parola al ritratto. No, no, mio bel signorino, voi siete tanto simpatico, ma non mi date affidamento più di una banderuola. È inutile scrivere quei biglietti commoventi, tirar fuori quel sorriso insinuante, niente di buono ne può venire, e io non permetterò. Sospirò e poi cadde in una fantasticheria da cui non si scosse fino a che non fece notte. Allora scese ancora di sotto a osservare meglio ed ebbe la conferma del sospetto. Sicuro, con Amy lo ricivettava e con lei scherzava, ma con Beth aveva sempre una gentilezza particolare. Vero è che con Beth erano gentili tutti, sicché a nessuno veniva in mente che lei volesse bene più che alle altre. Anzi, negli ultimi tempi, in famiglia prevaleva l'impressione generale che il nostro ragazzo si affezionasse ogni giorno di più a Joe, che però non ne voleva sapere e si ribellava vivamente se qualcuno alludeva alla cosa. Se avessero saputo di certe espansioni, perlomeno tentate fin dall'anno prima e troncate, è vero, sul nascere, tutti avrebbero esclamato con gran soddisfazione: lo dicevo io. Ma Jo ne aveva orrore di quelle smancerie, come diceva lei, non ne voleva. Al minimo segno di pericolo aveva pronto sempre lo scherzo oppure il broncio. In collegio Lori si innamorava almeno una volta al mese, ma erano piccole vampate, ardenti ma brevi, innocue. Joe si divertiva molto a quelle altalene di speranza, di disperazione, di rassegnazione che egli le confidava nelle interviste settimanali. Venne però il tempo che Lori non distribuiva più la sua adorazione fra molti altari. Cominciarono le allusioni oscure a una passione unica ed esclusiva, gli atteggiamenti cupi, byroniani. Poi di certe cose non parlò più. Le evitava del tutto. Si mise a scriverle biglietti pieni di saggezza e di riflessioni filosofiche, si applicò molto allo studio, lasciando capire che voleva sgobbare, conquistare il diploma con una votazione gloriosa. A lei questo umore piaceva più che le confidenze crepuscolari, le strette di mano troppo lunghe o le occhiate tenere. In Joe il cervello si era sviluppato prima del cuore. Ai primi amorosi, in carne ed ossa, preferiva quelli immaginari. Quando era stufa, li poteva chiudere nella cucina di lamiera e lasciarveli finché non le veniva voglia di rimetterli fuori. Quelli veri non erano così docili. A questo punto erano le cose quando Joe fece la grande scoperta. Quella sera osservò Lori come non aveva mai fatto. Se non le fosse entrata in testa quell'idea nuova, ella non avrebbe trovato nulla di strano nella grande tranquillità di Beth e nella grande gentilezza di Lori con lei. Ma la fantasia vivace di Joe adesso le prendeva la mano e galoppava. Il senso comune, invece, alquanto fuori allenamento, grazie al mestiere di scrivere romanzi, non era così pronto alla riscossa. Beth, come sempre, stava adagiata sul sofà e Lori, seduto sopra una seggiola bassa accanto a lei, la divertiva con mille chiacchiere. Per Beth era una cara abitudine, una gioia attesa quel colloquio settimanale e lui non mancava mai. Ma quella sera pareva a Joe che lo sguardo di Beth si posasse con insolito piacere sul bel volto vivace di lui e che ella si interessasse molto alla descrizione di un racconto di cricket particolarmente eccitante, sebbene il gergo sportivo per lei fosse sanscrito. Decisa com'era poi a trovare nelle maniere di lui una gentilezza sempre più marcata, ce la trovava effettivamente. Le pareva che ogni tanto egli abbassasse la voce e ridesse di meno e avesse qualche distrazione, e nello stendere lo scialle afghano sui piedi di Beth mettesse una premura che a momenti somigliava quasi alla tenerezza. Chissà, alle volte si vedono fatti ancora più strani, pensava Joe, muovendosi agitata per la stanza. Ah, se si amassero, che angelo ne farebbe lei di Lori, e che vita dolce e serena le farebbe fare lui. Ma com'è possibile che egli non l'ami? Come può farne a meno? Se non ci fossimo anche noi, per forza, Lori. Noi? Rifletté poi. Era lei, Joe, il vero ostacolo, la sua presenza, e tosto decretava di togliersi di mezzo senza tardare. Ma dove andare? E tutta infiammata dall'idea di sacrificarsi sull'altare dell'amore di sorella, Joe si mise a riflettere. Ora, dovete sapere che il vecchio sofà su cui si sedeva era un mobile venerando, lungo, largo, basso e carico di cuscini, ma ridotto, si capisce, a tutte e quattro fin da bambine serviva per dormirci. O semplicemente sdraiarsi, pescare con la lenza affacciate sopra la spalliera verso il muro, montare a cavallo sui braccioli, giocare alle belve in agguato là sotto oppure in gabbia. Poi, crescendo, abbandonarvi il capo stanco, sognare, ascoltare qualche discorsetto tenero. Tutte lo amavano il vecchio sofà. Era il rifugio di famiglia. Un angolo poi era il preferito di Joe per starvi a doziare, e fra i tanti cuscini uno ce n'era, duro, cilindrico, ruvido, di crini di cavallo, con un largo bottone piatto in mezzo a ciascuna delle estremità. Proprio quel cuscino, che era il meno attraente di tutti, era proprietà riservata a lei, perché le serviva come arma offensiva e difensiva e per non dormire troppo a lungo. Lori lo conosceva bene e aveva tutte le ragioni per odiarlo. Da piccolo, quando facevano il diavolo a quattro, ne aveva prese di cuscinate col salsicciotto. E più tardi, quante volte il salsicciotto medesimo si era trovato come una barriera fra lui e il posto che gli amava di più, vicino a Joe, nell'angolo. Ritto come una colonna, diceva che era permesso avvicinarsi, ma a condizione di star cheto. Messo per traverso, invece, diceva: guai a chiunque, uomo, donna, ragazzo che sia, osi disturbarla. Quella sera Joe non si ricordò di barricarsi nel proprio angolo e non c'era da 5 minuti che già una figura poderosa era lì, accanto a lei, con le braccia distese lungo la cornice della spalliera e le lunghe gambe distese anch'esse davanti. Con una rifiatata di soddisfazione, Lori esclamò: il salsicciotto, alimento sano e che riempie molto spazio nella pancia e altrove, anche se nutre poco. Non diciamo volgarità, interruppe Joe secca e abbatté con violenza il salsicciotto per barricarsi, ma troppo tardi. Non c'era più posto fra loro due e l'ostacolo scivolò giù e scomparve chissà come sotto il sofà. Sì, buona, Joe, non mi stare a metter fuori le unghie. Dopo una settimana che mi consumo sui libri, me lo merito, no? Di essere un po' carezzato. Ci penserà Beth, io ho da fare. Lasciala in pace, Beth. A te non dispiace se non sei diventata un'altra in un momento? O è così? Non vuoi bene al tuo ragazzo? Proprio stasera lo vuoi bombardare di cuscinate? Mattone, parole suadenti, quella sera non dovevano servire a nulla. Joe fu pronta con la doccia fredda, come la con la domanda seguente: quanti mazzi hai mandato questa settimana a Miss Randall? Nemmeno uno, in parola. È fidanzata. E allora, capisci? Mi fa piacere. È una delle tue stravaganze sciocche spendere in fiori e regali a ragazze che in fondo non ti importano un fico secco, disse Joe, sempre più severa. Le ragazze intelligenti, quelle che mi importano quanto tutta una pianta di fichi, non li vogliono, da me, i fiori e i regali. Come devo fare allora? La piena degli affetti, come dicono i tuoi personaggi, ha ben diritto a un po' di sfogo, no? La mamma non approva la civetteria, neanche per ischerzo, e tu non fai altro, Teddy. Pagherei non so cosa per poter dire anche tu. Siccome non posso, dirò solo che non ci vedo niente di male in uno scherzo innocente e divertente, ma ben inteso che sia uno scherzo, per ambedue le parti. Divertente, pare, ma non mi riesce di imparare come si fa. Ho provato, per l'occhio della gente, per fare come tutte, ma non mi pare di aver fatto progressi, disse Joe, deponendo per un istante il tono di mentore che voleva imporsi. Prendi lezioni da Amy, ha un vero talento in proposito. Sì, ci riesce davvero benino, e mi pare che rimanga sempre nei limiti. Immagino che sia un dono che hanno certe persone di piacere senza sforzo, mentre certe altre non fanno ciò che va fatto o non lo sanno fare, nel tempo e nel luogo giusti. Io ne sono contento se tu non ci sei tagliata per la civetteria. È proprio una cosa che fa bene al cuore, trovare una ragazza intelligente, semplice, che sa essere allegra e gentile senza fare la scema. Sia detto fra noi due, Joe, certe ragazze che conosco spingono le cose a un punto tale che mi vergogno per loro. Mica con intenzione cattiva, ne sono sicuro, ma se sapessero come parliamo fra noi maschi, dopo cambierebbero sistema. Anche le ragazze parlano fra loro, dopo. E siccome la lingua delle donne taglia e cuce di più, voi maschi avete sempre la peggio. Perché siete sciocchi quanto loro, né più né meno. Se cominciaste voi a trovare la via giusta, quelle vi seguirebbero. Ma siccome sanno che la loro stoltezza vi piace, continuano. E voi altri poi le criticate. Ne sai molto tu? Esclamò Lori con aria di superiorità. Non è mica vero che ci piacciono le sventate e le civette. Qualche volta ci comportiamo come se ci piacessero, è vero, ma tra la gente per bene una ragazza carina, modesta, non è mai oggetto di maldicenza. Se ne parla sempre con rispetto. Credi pure, Joe, la tua beata ingenuità resterebbe molto stupita se tu potessi metterti al mio posto per un mese e osservare certe cose. Ti assicuro che quando vedo quelle sventatelle senza giudizio, mi vien voglia di dire col nostro amico Cook Robin, passa via, farfallina svergognata. Era difficile non ridere all'evidente contrasto fra la ripugnanza cavalleresca di Lori a dir male delle donne e la sua antipatia molto naturale per la stoltezza di alcune di esse, di troppe. Lo sapeva bene Joe, che nell'ambiente della società a Lawrence Junior era considerato un ottimo partito dalle mamme esperte ed era il fuoco sul quale convergevano i sorrisi delle figliuole e l'adulazione delle donne di ogni età. Ce n'era d'avanzo per renderlo presuntuoso. E Joe lo sorvegliava con un po' di gelosia. Temeva glielo guastassero, ne facessero uno scettico. E ora osservava con più soddisfazione di quanto confessasse a se stessa che egli preferiva ancora le ragazze modeste. Riprese d'un tratto il tono di predica e abbassando la voce lo consigliò. «Teddy, se la piena degli affetti, come dici tu per canzonarmi, ha davvero bisogno di un po' di sfogo, perché non ti decidi, da bravo, a dedicarti a una di queste ragazze carine e modeste che preferisci e seguiti invece a perder tempo con le sciocche?» «È proprio il consiglio che mi dai?» le chiese Lori con un'espressione curiosa, un misto di ansietà e contentezza. «Sicuro? Però, tutto sommato, faresti meglio ad aspettare quando hai finito il collegio e intanto prepararti a dovere. Ancora non te la meriti. Ti manca una come... non faccio nomi, insomma la ragazza che la vita ti destina», e qui anche Joe prese un'espressione curiosa, per poco non le era sfuggito il nome. «È vero, lo riconosco», disse Lori con un'aria umile che in lui era del tutto nuova, e abbassando gli occhi allungò distrattamente una mano a giocherellare con l'orlo del grembiolone di Joe. «Oh signore, no», pensò lei atterrita. «Cantami qualche cosa, ho tanta voglia di sentir musica e la tua voce mi piace sempre». «Preferirei rimanere qui, se non ti dispiace, grazie.» «No, non c'è posto qui per tutti e due. Muoviti un po', renditi utile in qualche modo, visto che sei tanto ingombrante. Credevo che non ti piacesse star legato a una gonnella.» Legato a una gonnella era una frase preferita di lui quando faceva l'uomo forte. «Beh, secondo di chi è la gonnella?» E Lori diede una tiratina al grembiolone. «Te ne vuoi andare?» minacciò lei, chinandosi a cercare a tentoni il salsicciotto. Egli scappò via subito e appena ebbe intonata la canzonetta di Bonnie Dundee, lei balzò in piedi e uscì, decisa, a non ritornare, finché lui, arrabbiato finché voleva, non se ne fosse andato. Quella sera, Joe tardava a prender sonno, ma alfine stava per riuscirci, quando un singhiozzo soffocato la fece accorrere al letto di Beth. «Cosa c'è, cara?» «Credevo che tu dormissi», singhiozzò ancora Beth. «È quel doloraccio solito?» «No, è un altro stavolta, uno nuovo!» «Ma lo sopporto, sai?» E Beth cercava di frenare il pianto. «Dimmelo, dimmi tutto, voglio fartelo passare come quell'altro!» «Non puoi, cara, non c'è rimedio per questo.» E la voce di Beth venne meno. Ella si strinse alla sorella con un pianto disperato che le fece paura. «Dov'è che ti duole? Chiamo la mamma!» Alla prima domanda Beth non rispose, ma nelle tenebre una mano le andò involontariamente al cuore, come se il dolore fosse lì, mentre l'altra stringeva Joe forte. «No, no!» bisbigliava. «Non la chiamare, non glielo dire. Mi sentirò meglio tra poco. Stenditi un po' accanto a me e accarezzami la testa, vedrai che mi calmo e mi viene sonno, te lo prometto.» Joe le obbedì, e mentre la mano lieve sfiorava la povera fronte scottante e gli occhi pieni di lacrime, il suo cuore non ne poteva più, voleva parlare. Ma, pur giovane com'era, Joe aveva appreso che un cuore è come un fiore, non bisogna fargli violenza perché si schiuda, bisogna aspettare che si apra da sé. Credeva di saperlo il perché del dolore nuovo di Beth, ma non le disse altro che: «Hai qualche pensiero, cara?» Lunga pausa, e poi: «Sì, Joe, non ti farebbe bene dirmi cos'è?» «Adesso no, non ancora.» «Bene, non insisto, ma ricordati, Beth, che la mamma e Joe sono sempre qui per ascoltarti, per aiutarti se possono.» «Lo so, te lo dirò. Fra non molto. Soffri un po' meno adesso?» «Oh sì, molto meno. Tu mi sai consolare così bene, Joe.» «Cerca di dormire, cara. Io non mi muovo di qui.» E si addormentarono guancia a guancia. La mattina dopo, Beth parve fosse tornata lei. A 18 anni, né la mente né il cuore soffrono a lungo e una parola affettuosa può guarire molti mali. Ma Joe prese la sua decisione. Per qualche giorno meditò un certo disegno e alfine lo confidò a sua madre. «L'altro giorno tu mi domandavi se avevo dei desideri, mammina. Uno te lo dirò.» Erano sole. E Joe aggiunse: «Quest'inverno voglio andar via, in qualche luogo, per cambiare.» «Perché, Joe?» esclamò la mamma levando gli occhi sorpresa, come se le parole della figlia le dessero il sospetto di chissà quale mistero. Senza alzare lo sguardo dal lavoro, pacatamente, Joe le rispose: «Ho bisogno di novità, mi sento irrequieta, con una gran voglia di vedere, di fare, di imparare altre cose. Qui me ne sto troppo a ruminare i miei soliti pensieri, le mie piccole faccende, bisogna che mi muova. Quest'inverno qui in casa non sono indispensabile e allora vorrei spiccare un po' il volo, provare le ali.» «E dove vuoi andare?» «A New York. Ieri mi è venuta un'idea luminosa, è questa. Tu sai che la signora Kirk ti ha scritto chiedendoti se avevi una persona giovane per bene per fare da istitutrice alle sue bambine e lavorare di cucito. Non è facile trovare la persona proprio adatta, ma credo che io, se mi provassi, riuscirei.» «Ma come, mia cara? Vuoi andare a servizio in quella gran pensione?» La signora March era evidentemente sorpresa, ma non pareva che l'idea le dispiacesse. «Beh, a servizio non è esatto, mamma. La signora Kirk è tua amica e è l'anima più buona che ci sia al mondo e mi renderebbe la vita piacevole, ne sono certa. La famiglia e la pensione sono due cose separate e poi là nessuno mi conosce. Del resto, anche se mi conoscessero, che importa? È un lavoro onesto e io non me ne vergogno.» «Nemmeno io, ma il tuo lavoro di scrittrice se ne avvantaggerà molto. Vedere e sentire cose nuove, acquistare nuove idee. Anche se là mancherà il tempo per scrivere molto, ne riporterò a casa tanto materiale per le mie sciocchezzuole.» «Non ne dubito, ma certo codesta tua decisione, così all'improvviso, avrà altri motivi.» «Sì, mamma.» «Si possono sapere?» Joe guardò il soffitto, poi guardò il pavimento e quindi, adagio adagio, arrossendo d'un tratto, disse: «Mi ingannerò. O sarà vanità la mia, ma temo che Lori mi si vada affezionando troppo.» «E allora È evidente che tu non senti per lui un'affezione dello stesso genere. E la signora March, preoccupata, guardò la figlia. Oh Dio, no, è un caro ragazzo, gli voglio bene, gliene ho sempre voluto, sono molto orgogliosa di lui, ma è tutto. Un sentimento d'altro genere lo escludo. Assolutamente. Questo mi fa piacere, Joe. Perché, scusa? Perché, mia cara, non credo che sareste adatti l'uno per l'altra. Come amici, sì, perché litigate spesso, ma poi vi passa presto. Ma se foste uniti per la vita, temo che vi ribellereste ambedue. Vi rassomigliate troppo. Amate troppo la libertà, per non parlare dei caratteri vivaci e delle volontà forti, per poter tirare avanti insieme. Nel matrimonio ci vuole molta pazienza e tolleranza, oltre all'amore. Questo era proprio anche il mio pensiero, ma non lo avrei saputo esprimere. Ho piacere che, a quanto sembra, il suo amore cominci proprio adesso. Sarebbe una grande tristezza per me renderlo infelice, perché si intende che io non potrei innamorarmi di quel caro figliuolo unicamente per riconoscenza. È vero? Sei sicura del suo sentimento per te? Joe arrossì, ancora di più, e rispose con quell'espressione mista di piacere, di orgoglio e di dolore che ha una ragazza giovane quando parla del suo primo innamorato. Temo di sì, mamma. Non ha parlato, ma di segni ne ha dati tanti. Credo sia meglio che io me ne vada prima che la cosa diventi seria. Sono d'accordo con te. E se sarà possibile, andrai. Joe ebbe un sospiro di sollievo e dopo un breve silenzio disse, sorridendo, che madre inabile saresti per la signora Moffat. Se sapesse, e come sarà contenta, così sua figlia potrà sperare ancora. Vedi, Joe. Le madri saranno più o meno abili, ma sperano e vogliono tutte la stessa cosa, la felicità delle figlie e dei figli. Meg è felice e secondo me ha fatto un ottimo matrimonio. Te preferisco lasciarti godere la tua libertà finché ne sarai stanca. Allora soltanto vedrai che nella vita c'è qualche cosa più dolce della libertà. Per il momento, quella che mi dà più pensiero è Amy, ma è piena di buon senso e questo le sarà di grande aiuto. Per Beth, non oso sperare altro che di vederla riacquistare la salute. A proposito, da un paio di giorni mi pare un po' animata. Le hai parlato tu? Sì, mi ha confessato che ha un pensiero e mi ha promesso che fra non molto me lo dirà. Io non insisto oltre perché credo di sapere cos'è. E Joe raccontò la sua piccola storia. La signora March scosse il capo. La cosa non la vedeva sotto un aspetto così romantico, lei. Ma con molta serietà ripeté la sua opinione. Per amore di Lori, Joe faceva bene ad allontanarsi per qualche tempo. Non gliene parliamo, disse Joe, finché la cosa non è decisa e stabilita nei suoi particolari. Allora io partirò senza lasciargli il tempo di orientarsi e prendere un'attitudine tragica. Beth deve pensare che io vado via per il mio gusto, e questa è la verità, perché con lei io di Lori non posso parlare. Ma quando io non ci sarò, lei lo accarezzerà e lo conforterà, così gli farà andar via le idee romantiche. Lui ne ha avute tante di piccole esperienze del genere, che deve averci fatto un po' l'abitudine, e così anche stavolta gli passerà. Joe era piena di speranza, ma non riusciva a liberarsi dal presentimento che questa volta la piccola esperienza sarebbe stata molto più dura e il dolore a Lori non sarebbe passato con la solita facilità. Il progetto venne discusso a fondo in un consiglio di famiglia. Si misero d'accordo su ogni cosa, ben lieti, quando la signora Kirk accettò con piacere e promise di tenere Joe come una figlia. Con l'insegnamento ella si sarebbe guadagnata la vita e il tempo disponibile, poco o molto che fosse, lo avrebbe utilizzato per la produzione letteraria, mentre poi la nuova vita e il nuovo ambiente le sarebbero riusciti utili e dilettevoli insieme. Joe era contenta della prospettiva e non vedeva l'ora di partire. Nel nido dove era nata la sua natura irrequieta, il suo spirito avventuroso cominciavano a sentirsi alle strette. Quando tutto fu stabilito, ella, con un lieve tremito nella voce, informò Lori. Ma, con sua grande sorpresa, egli prese la cosa con molta calma. Da qualche tempo si era fatto più serio, pur senza perdere il suo buon umore. Quando per scherzo gli dicevano che evidentemente stava voltando una pagina della sua vita sentimentale, lui rispondeva senza ridere: Sicuro, ma voglio che il libro poi rimanga aperto a quella pagina per sempre. Joe fu ben lieta che proprio in quei giorni gli fosse venuto uno dei suoi accessi di virtù e fece i suoi preparativi col cuore più leggero, perché Beth pareva sempre più sollevata. Insomma, Joe era convinta di aver fatto ciò che era meglio per tutti. «C'è una cosa che io affido alle tue cure particolari, Beth», disse la sera prima della partenza. «Le tue carte?» «No, il mio ragazzo. Sì, molto buona con lui, me lo prometti?» «Si capisce, ma le tue veci non le posso fare io. La sentirà molto dolorosamente la tua mancanza.» «Oh, non gli farà poi un gran male. Ad ogni modo, ricordati, lo affido a te, per carezzarlo, per punirlo, per guidarlo.» «Farò quel che potrò per amor tuo», promise Beth. Ma perché la guardava in quel modo così curioso, Joe? Dopo averle detto addio, Lori le bisbigliò con un tono pieno di sottintesi: «Non serve a nulla, Joe. Io non ti perdo d'occhio, perciò bada bene a quello che fai, altrimenti ti vengo a prendere e ti porto a casa.»